La teoria delle stringhe è nata. È democratico perché. Per OGM si intende. L'effetto placebo. Da Bacon. È rimasta quella di Darwin. La mia risposta è che non lo so. Caccia al fotone. Scienza e dintorni su Radio Città Fujiko. A cura di Fabio De Sicò. Sabato 25 aprile 2009 e benvenuti a un'altra puntata di Caccia al Fotone. Su internet www.cacciafotone.it. E come da tradizione vi do il benvenuto al podcast sull'anno internazionale dell'astronomia. Un anno speciale che celebra i 400 anni dalle prime osservazioni di Galileo. E per parlare dell'anno internazionale dell'astronomia abbiamo al telefono la dottoressa Emanuela Colombi, fisico ma soprattutto membro dell'associazione Google, un'associazione di divulgazione scientifica parmense. Dottoressa Colombi, per lei cos'è l'anno internazionale dell'astronomia? Per me è un anno fantastico, un anno da tanto atteso. L'idea che si festeggi un compleanno molto particolare, perché come sappiamo ormai è 400 anni che Galileo Galilei ha guardato il mondo con altri occhi, usando un cannocchiale. E quindi dedicare un anno all'osservazione del cielo e a ricordare la più affascinante tra le scienze, che è l'astronomia. Un cadeau Noël, c'est vrai, c'était cherché. A coup d'hydrocarbure, la Bretagne s'est fait lifter. Mais quand on lui souligne au crayon noir ses jolis yeux, pense pas que ce soit vraiment la couleur qu'elle aime le mieux. Ça n'a pas vraiment l'air d'inquiéter outre mesure. Peut-être que la mer j'aime bien les hydrocarbures. Ça n'a pas non plus l'air d'inquiéter les pétroliers. Peut-être que la mer un jour elle va crever. Tout le monde avait juré plus jamais ça n'arrivera. L'exception qui confirme aujourd'hui c'est les. Da sabato 28 marzo fino al 31 maggio 2009 si trova a Parma una mostra intitolata Diversi Cieli, una mostra che unisce sia la scienza sia la cultura, una mostra che sta provando a descrivere la diffusione dell'astronomia nei diversi continenti. Dottoressa Colombi, da dove parte quindi questa mostra? Ma la mostra Diversi Cieli parte da alcune attività che abbiamo iniziato come associazione, io e Lara Albanese, a fare l'anno scorso in collaborazione con il Comune di Parma ed in particolare con il Centro Parchi Storici e Cultura Scientifica del Comune di Parma. Abbiamo iniziato l'anno scorso a fare dei laboratori all'interno del parco, scienza, e anche questi erano forse già in vista dell'anno dell'astronomia, perché uno di quelli che sono stati più apprezzati è relativo all'ombra del tempo, per cui la scoperta delle ombre, la misura del tempo, il tutto fatto in un giardino, il Parco Ducale di Parma. E quindi diciamo così ci siamo conosciuti e abbiamo iniziato a lavorare con le persone del comune ad un percorso di questo tipo, e loro sono stati, diciamo così, interessati alla nostra proposta di una mostra di astronomia. Peraltro la cornice del Parco Ducale è una delle cornici più belle di Parma, e quindi scegliere proprio quella come cornice per la mostra di Versicelli credo che sia stata una delle scelte più azzeccate che si poteva fare. Ma in effetti, diciamo, il Parco Ducale è bellissimo, è un posto dove si respira in mezzo al verde, e poi c'è questo palazzetto che è il palazzetto Chiri San Vitale, che è un palazzetto del 1400 all'interno del parco, che è decisamente molto bello, ha alcune piccole sale ma decisamente molto carine, con le volte affrescate, ed è un piacere, penso, per le persone poi che visiteranno, venire a visitare la mostra in un ambiente così gradevole. Beh, la cosa bella di questa mostra è proprio che la mostra è divisa in tante sale quanti sono i continenti. E prima di entrare nel dettaglio però di cosa c'è nelle varie sale, quindi di cosa viene raccontato nei vari continenti, dobbiamo dire che questa mostra è stata sviluppata dall'associazione Google insieme al Comune di Parma. Ma chi ha partecipato effettivamente alla strutturazione di tutta questa mostra, che è una mostra molto complessa? Beh, intanto il progetto scientifico è stato fatto dall'associazione Google, ed è stato fatto da me, come dicevo, e dalla Albanese, poi della nostra associazione ha lavorato anche Paola De Simone, che ha curato, diciamo così, i disegni e la presentazione iconografica di alcune immagini, e poi c'è stato, diciamo così, il lavoro fatto di ricerca di immagini di Alice Magalini, un lavoro fatto per l'allestimento, per la comunicazione, fatto da Luca Gilli, e poi la responsabile del Centro Parchi Storici, Rosa Marzolini, che ha seguito e soprasseduto, diciamo così, la parte attuativa di questa mostra. Questa mostra che e comunque tutte le persone del Centro Parchi, ecco, direi in generale. Abbiamo voluto giocare la mostra su tantissimi temi. Intanto il titolo, diciamo così, mette in evidenza che è un'astronomia tra il mito e la scienza nei cinque continenti, e questa astronomia tra il mito e la scienza nei cinque continenti, diciamo così il sottotitolo, ci dice che abbiamo componenti scientifiche, abbiamo dei richiami alle culture dei diversi continenti, e abbiamo tutto questo, l'abbiamo voluto presentare non solamente con dei pannelli ma con degli exhibit interattivi, con dei materiali storici e iconografici di tutti i vari continenti. Io poi immagino che la ricerca di queste mitologie non europee, ma per esempio africane o americane o asiatiche, sia stata molto complessa, perché noi siamo abituati sempre a sentire la solita mitologia, la mitologia greco-romana con Ercole, Zeus e tutti gli animali che popolano il cielo estivo, invernale, ma effettivamente l'astronomia è stata tradotta in tanti modi e stesse stelle vengono viste in maniera diversa in diverse parti della Terra. Sì, l'astronomia assolutamente è tradotta in tanti modi, proprio perché l'uomo da sempre ha guardato il cielo in ogni continente, in ogni cultura, e noi come associazione è da diverso tempo che lavoriamo in questo campo. Abbiamo collaborato con l'Osservatorio di Arcetri per diversi progetti, in particolare l'ultimo quest'anno, I Cieli del Mondo, che è stato presentato anche al Festival della Scienza di Genova, dove si andava a lavorare su quelli che erano, diciamo così, i miti, le leggende, i modi di vedere il mondo da parte delle popolazioni dell'Africa e delle popolazioni della Cina. Comunque è un lavoro particolarmente lungo, che è impegnativo ma anche interessantissimo, perché è un lavoro che si svolge a contatto con le persone, con astronomi da ogni parte del mondo, o persone comunque che vengono da ogni parte del mondo, e quindi, diciamo così, è un lavoro anche molto molto bello. Dottoressa Colombi, proviamo a fare un percorso ideale virtuale e radiofonico. Proviamo a spiegare che cosa incontrerà una persona quando entrerà dentro la mostra di Versicelli. Abbiamo già detto che la mostra è divisa in tante stanze quanti sono i continenti, ma qual è la prima cosa che incontra un visitatore? Ma diciamo che noi abbiamo voluto fare una sezione iniziale diciamo così, con i principali argomenti astronomici, e quindi stelle, galassie, sole, pianeti, l'universo, e un'apertura sui telescopi attraverso le spettacolari immagini della NASA dell'ESO. E poi dopo ci sono le varie stanze dedicate ai 5 continenti, faccio per dire, non lo so, il percorso può iniziare dall'America, con lo studio del cielo tra le figure degli antichi Maya, gli Inca e i nativi americani. E in questa America non abbiamo soltanto questo, ma abbiamo, insieme a questi, abbiamo degli exhibit interattivi, ad esempio nell'America c'è quello del suono delle pulsar o il computer collegato al progetto SETI, e poi abbiamo anche degli oggetti in mostra. Ad esempio in America abbiamo fatto una scoperta bellissima andando a lavorare insieme al Museo Cinese ed Etnografico di Parma, abbiamo studiato quelli che sono le concezioni cosmologiche dei Kayapo, il popolo bello dell'America del Sud, un popolo che nel suo copricapo rappresentava le origini dell'umanità, le origini celesti dell'umanità, in quanto i Kayapo considerano di essere, diciamo così, discendenti dal cielo, e che i primi Kayapo siano discesi sulla terra tantissimi anni fa seguendo un armadillo. E quindi abbiamo poi anche tutti questi oggetti, diciamo così, originali delle varie culture prestateci dai vari musei. Ad esempio in Asia abbiamo un cielo che è molto simile al nostro, insomma in Cina in particolare, un panorama astronomico molto simile, ma con dei racconti, delle storie molto belle, raccontate spesso attraverso il teatro delle ombre. Quindi come esempio abbiamo il discorso del teatro delle ombre cinese, abbiamo il discorso delle bussole, il discorso del magnetismo, e abbiamo dei magnifici oggetti in mostra, come ad esempio un vaso della dinastia Ming che racconta la leggenda della principessa prestitrice, e altri reperti che riguardano le origini e le leggende cinesi. In Africa, ad esempio, abbiamo tutte le storie africane collegate al sole, che, come dice un proverbio del Gabon, non dimentica mai nessun villaggio. Andiamo poi all'analisi dello spettro solare, e abbiamo uno studio particolare della costellazione di Orione che ci mette in evidenza appunto le distanze tra le stelle, che quindi noi percepiamo le costellazioni così come vediamo le stelle principali delle costellazioni come proiettate su uno sfondo, senza cogliere che nella realtà tra una stella e l'altra ci sono delle distanze anche notevoli. Abbiamo lo spettroscopio, abbiamo oggetti poi di uso quotidiano, archi, frecce, mortali.